Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Cuba con Davide Barilli. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Orde di turisti sbarcano ogni anno a Cuba. La maggior parte di loro non si muove dalle spiagge di Varadero o da Cayo Largo, soggiorna negli alberghi 5 stelle o si sposta con pulmini privati per il tour classico dei vacanzieri. Ma c'è anche un altro modo di viaggiare, vivere da lì dentro nella calle, nelle strade della Habana, una delle città più affascinanti del mondo, dove tutto eventuale è possibile, la fine di un'illusione. Il mio compagno di viaggio di oggi è Davide Barilli, che inizia la nostra chiacchierata leggendomi un pezzo del suo libro Carte d'Havana. Sono arrivata sino a Parma in una mattina assolata per farmi raccontare di Cuba. Nome Repubblica di Cuba, capitale Havana, abitanti quasi 12 milioni. Clima: la forma allungata dell'isola, la sua disposizione sull'asse est-ovest e la modesta differenza di latitudine fra le sue estremità rendono l'isola uniforme dal punto di vista climatico, caratterizzato dal soffio costante degli alisei che provengono dall'Oceano Atlantico. Il clima tropicale viene diviso in due stagioni, secco nel periodo invernale, da novembre ad aprile, e umido da maggio a ottobre. Confini. Cuba non è solamente un'isola, ma anche un arcipelago che comprende quasi 4200 isole e isolette, dette Cayos, che circondano l'isola principale. È situata nella parte settentrionale del vasto arcipelago dei Caraibi ed è la sua isola più grande. A nord si trovano gli Stati Uniti, separati da Cuba dallo stretto di Florida, largo 180 km, e l'Oceano Atlantico settentrionale. A ovest si trova il canale dello Yucatan, che la separa dal continente centroamericano. A sud, il Mar dei Caraibi, e a est, il canale Sopravento, che la separa da Haiti. Forma di governo, Stato socialista. Lingua ufficiale, spagnolo. Fuso orario, meno 5 ore rispetto al meridiano di Greenwich, meno 6 rispetto all'Italia. Documenti. Per entrare a Cuba sono richiesti il passaporto valido e la tarjeta di desembarco o turistica. Questo documento viene fornito dal tour operator. Chi decide di partire in proprio deve richiederlo alla sezione consolare dell'ambasciata di Cuba a Roma o al consolato cubano a Milano. Moneta. Cuba ha due monete, il peso cubano, chiamato moneda nacional, che è utilizzato principalmente dai cubani, che con questa valuta ricevono il salario delle imprese statali e le pensioni, e il peso cubano convertibile, la valuta utilizzata dai turisti e dagli stessi cubani come pagamento di benzina, alberghi, ristoranti e la maggior parte di cibi e prodotti di importazione. Il primo viaggio che io ho fatto a Cuba è stato proprio alla capitale, ad Havana, ed è un viaggio che è nato una ventina d'anni fa proprio alla ricerca di un'altra Cuba, di un'altra Havana, non quella convenzionale ideologizzata dal comunismo, oppure neppure l'altra Cuba turisticizzata al massimo, quindi la Cuba dei villaggi all inclusive. Ho cercato di andare a caccia, forse anche così è complice il mio lavoro di segugio, no? di cronista, di giornalista cronista, cacciatore di storie, a caccia di una Cuba appunto che non fosse quella scontata, quella più ovvia, ed ho trovato effettivamente un mondo incredibile, un mondo popolato di personaggi, di storie. Per un raccontatore di storie come sono io, è stato sicuramente una riserva incredibile di racconti, di ipotetici libri scritti o probabilmente che non scriverò mai, oppure chissà, li ho dentro, un domani li scriverò. Se si pensa a Cuba, almeno per me che non ci sono mai stata, una delle ultime cose che vengono in mente è il buio. Ma dalle parole di Davide scopro che non è così. Una delle cose che sicuramente colpisce il viaggiatore è l'apagon. Molti non sanno cosa sia l'apagon, è praticamente il buio. Tutti noi conosciamo il buio, no? Di notte le città sono buie. Ma il buio che ci può essere a Cuba, che ci può essere a La Habana, una città così grande, di oltre 2 milioni di abitanti, è un buio assoluto, è un buio. L'ho scritto in questo piccolo libro che si chiama Carte d'Havana, che raccoglie appunto una serie di impressioni di viaggio, una sorta di Baedeker anomalo di un turismo alternativo. Anche oggi la notte sul Malecón è di un buio naturale, come le notti del tempo in cui l'uomo era abituato a sgranare gli occhi per ore e ore con la speranza di intravedere non volti ma ombre. Di colpo La Habana si è spenta, completamente nelle tenebre, come se qualcuno da lassù avesse soffiato su questa torta rosa e sgangherata per nasconderne le crepe. Una torta rosa e sgangherata che alla fine della giornata si spegne. Questo è l'apagon a La Habana. Ecco, l'apagon, dal verbo apagare, no? Apagar, che significa spegnere, era da una amara ironia la vita dei cubani. Il cubano un tempo si spaventava per questo buio improvviso che scendeva, no? E come si arrangiava da noi nelle campagne 30-40 anni fa, no? Con le riserve di lumini a olio, le candele, eccetera, e aggrappandosi a una pazienza collaudata. Poi la gente si è abituata a convivere con questo apagone, quindi questo buio è diventato un compagno di avventure, no? Infatti, quando arriva questo apagone, i mille sguardi della notte di Cuba diventano un'unica palpebra calda e avvolgente, al cui interno si muove un mondo misterioso ed indomito. Ci sono giocatori di domino che sotto il tremolio di ceri accarezzati dal vento marino ipotecano mogli o sorelle, svelandoti i segreti di serrature rugginose oltre le quali trovare donne dai sederi dilatati, inguainati in fuso rosso lampone, che svendono la loro dignità in cambio di un sacchetto di caramelle, ragazze dai denti d'oro che ti tirano per la maglia elemosinando un litro di latte per un cugino mai visto, qualcuno sgattaiola in casa tirandosi dietro un turista tedesco a caccia di un piatto di congri. Oppure ci si raduna per una birra sulla massicciata ad osservare quel mare color pece da cui non arriva altro che il suono della risacca ondeggiante che si spacca contro le pietre quadrate che fanno argine alla città. Quando arriva l'apagon con il suo buio che annerisce contorni, profili, occhiaie ed ombre, tutti si radunano come un drappello macilento e silenzioso, reggendo in mano una piccola candela rossa, e vanno a bussare dal babalao. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Cuba con Davide Barilli. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Parma è La Habana in una mattina di sole. Sono nella casa d'infanzia di Davide Barilli, che mi racconta, dopo anni di abbandono, è stata da poco ristrutturata perché le sue figlie hanno fatto pressione per potersi trasferire là. Ed è proprio là che è nata la sua passione per il viaggio, nel giardino che dà sul fiume, dove da piccolo immaginava di partire, di muoversi, di scorrere come l'acqua che aveva di fronte. Adesso siamo arrivati a La Habana. Cioè, Cuba, La Habana sono luoghi di grande impatto emotivo e visivo, perché tutto è possibile a Cuba e a La Habana. Esiste un'immagine che a me piace molto, che ripeto sempre a chi mi domanda qual è il fascino della La Habana e di Cuba. Il fascino è la parola eventual, Mi ricordo il primo viaggio che ho fatto, appunto circa 20 anni fa, mi sono trovato in una stradina di campagna completamente vuota, con le palme, non passava nessuna automobile, e improvvisamente vedo arrivare uno in bicicletta, un tizio in bicicletta che aveva due maiali legati con delle corde, con delle asse di legno dietro, no? E riusciva miracolosamente, ecco, a stare in equilibrio. Questa è la cosa incredibile, questi maiali silenziosissimi, e davanti aveva un cartellone di legno con questa scritta in azzurro, di vernice azzurra enorme, così appunto eventual. Io ho continuato a domandargli: ma che significa questa parola? E lui non capiva, purtroppo, il mio allora indecente spagnolo, che è migliorato leggermente nel corso degli anni dei viaggi, e non ho mai saputo che cosa significasse questa parola eventual. Però per me è rimasto veramente l'immagine di Cuba: tutto è possibile, tutto può accadere, e tutto ed è così, eventual. Le parole che rivelano l'anima di un posto, segnali che vanno decifrati e che costellano la strada del viaggiatore. Quante volte è successo anche a voi? Ecco, per esempio, l'ultimo viaggio che ho fatto quest'anno, poche settimane fa, ho cercato di approfondire una Cuba, una Havana che non conoscevo, ed è la Havana delle calzade, no? Cioè praticamente gli antichi barrios, i quartieri che sono al di fuori del circuito turistico, sono un po' più all'interno. 10 di ottobre, il Cerro, tutte queste zone un pochino periferiche. E qui ho trovato, ad esempio, dei negozi molto molto curiosi. Ad esempio, sono negozi dove vendono gli oggetti della santeria. La santeria, mi spiega Davide Barilli, è la religione che è stata portata dagli schiavi africani nel 500-600. Non potendo seguire le loro credenze religiose perché era proibito, hanno utilizzato le divinità spagnole modificandole un po'. E quindi ci sono ancora adesso queste figure di santi cattolici che hanno un doppio nome, che mescolano divinità africane e cristiane. Cuba è anche questo. Sufro la immensa pena del tuo extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Doppi nomi, divinità che sono il frutto di una mescolanza tra religioni africane e quella cristiana. Questa è la santeria, un aspetto di Cuba che Davide Barilli è andato a scovare nel suo ultimo viaggio. Ad esempio, San Lazzaro è la divinità, è il protettore degli infermi, dei ammalati, e loro lo chiamano Babaluaye. E c'è un santuario fuori L'Avana, vicino a Santiago de Las Vegas, che appunto è il santuario di Babaluaye. E ogni anno, per Natale, sotto Natale, tutti gli storpi, i malati, eccetera, percorrono questo tratto di strada. C'è un tratto di strada che porta al santuario, in ginocchio, praticamente ferendosi, questa idea ancora della sofferenza della religione come sangue e passione. E tutti i cubani, le famiglie cubane, hanno nelle loro abitazioni queste statuette di San Lazzaro con il cagnolino, e accanto a queste statuette di santi cattolici ci sono invece questi oggetti, li chiamerei così, della religione Yoruba, appunto la religione della santeria africana più tradizionale, che sono dei sassi con disegnati dei volti, i palo li chiamano, che sono dei bastoncini, che a noi non dicono niente, in realtà sono dei bastoni che hanno dei significati molto profondi e particolari, delle pietre, delle polveri, e ad esempio hanno questi scatolotti pieni di chiodi di ferro, altri oggetti di ferro arrugginito, eccetera. E infatti mi ricordo uno dei primi viaggi, ero rimasto colpito, pensavo che fossero cose da buttare, no? Che avessero messo in un angolino per buttarle. Poi invece il mio amico Amado mi ha spiegato che cos'erano e cosa servivano, quindi delle sorte di lari, no, di protettori della casa, che a Cuba ancora esistono, ecco. Ma come capita quando si parla di luoghi così frequentati anche da chi non c'è mai stato, solo per averli vissuti nei miti, nelle leggende, nei racconti degli altri, ecco che arriva il rammarico per il cambiamento. Anche Cuba non è più quella di una volta. Una delle cose che più mi ha colpito a Cuba è il cambiamento rapidissimo che si sta avendo nelle case. Mi spiego meglio. Le case cubane fino a 20-30 anni fa erano case bellissime, anche le case dei poveri paradossalmente, perché erano case fatte di madera, cioè di legno. Gli oggetti, le seggiole, come il sillon, cioè la seggiola a dondolo, erano fatte di legno di cedro, con queste di midollino, di materiali naturali, anche i tavoli, eccetera. Cosa sta accadendo? Che l'avvento del denaro, no? Un po' di denaro è arrivato, soprattutto è arrivato attraverso il turismo, attraverso le rimesse di parenti che vivono a Miami, quindi sono arrivati soldi freschi. E questi soldi però sono arrivati dove? Sono arrivati nelle case di una nuova borghesia che sta nascendo, una piccola borghesia, direi, piccola borghesia, e che utilizza questi soldi per arredare con gli unici mobili che si possono trovare sul mercato, gli unici mobili nuovi, che sono mobili cinesi, che sono quindi mobili di plastica, di formica, oggetti che francamente noi italiani aboriamo, no? Noi andremo alla ricerca invece degli oggetti antichi. Invece succede paradossalmente che certe cose antiche vengono buttate per far posto a queste orrende, almeno dal mio punto di vista, feticci diciamo della modernità, feticci della ricchezza nuova cubana. Mi fa un esempio molto divertente per farmi capire quanto sia davvero cambiata Cuba. Vi ricordate quei cani di ceramica che si mettevano davanti alle case 20-30 anni fa da noi? Ecco, lì costano carissimi e sono veramente dei feticci della ricchezza. I cubani che se li possono permettere sono molto orgogliosi di averli davanti a casa. Un aspetto molto contraddittorio e a tratti anche paradossale, come quello di gran parte dei giovani che hanno come valore assoluto l'oro e il denaro, perché sono abituati a vedere i cubani di Miami che quando arrivano all'aeroporto esibiscono al collo questi catenoni d'oro massiccio. È una Cuba che cambia, in peggio dal nostro punto di vista. Chissà cosa ne pensano i cubani. No, si sta buonissimo. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Cuba con Davide Barilli. When I walk beside her, I am a better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Cuba è per ora solo l'Havana, nelle parole di Davide Barilli, mentre beviamo io un tè e lui un bicchiere di vino rosso nella sua casa sul fiume a Parma. Mi ha già raccontato di come sia cambiata dai suoi primi viaggi e di come l'apagon, cioè il buio che cala di notte, sia un aspetto molto suggestivo dell'Havana ancora oggi. Adesso mi sta per condurre dentro a quella notte. Havana è una città che a vari aspetti a seconda delle ore del giorno, ecco. C'è una Havana notturna. Io non voglio parlare della Havana notturna dei turisti classici, di cui tutto sommato ci potremmo anche vergognare noi italiani, come gli spagnoli, canadesi, francesi e tanti altri rappresentanti delle nostre nazioni, cioè la Cuba o la Havana di chi va per e frequenta soltanto locali notturni, discoteche e prostitute, ecco. c'è un'altra Havana notturna, che è l'Havana appunto della calle, cioè della strada, l'Havana del centro Havana, delle zone di strade che si chiamano Consulado, Virtudes e quant'altro. Sono zone dove appunto la gente vive la notte, ma la vive in un modo molto pacato, cioè vive la notte perché la notte è più tranquilla, non c'è rumore, non c'è caos, quindi si gioca a domino, si chiacchiera, si canta, c'è sempre una bottiglia di rum da offrire a chi sta passando, no? C'è questa apertura nei confronti del prossimo, dello straniero, che probabilmente va anche letta in un modo diverso da quello a cui siamo abituati. Il turista, sì, è vero, può essere considerato, è considerato un pollo da spennare, un pollo, come dicono loro, un pepe, uno yuma. Però è anche vero che se tu non ti presenti con la macchina fotografica a tracollo, con i sandaloni e le calze, i pantaloncini corti e la faccia da ebete che non sa dove andare, e ti presenti come una persona normale che riesce a instaurare un dialogo con queste, avendo curiosità veramente nei loro confronti, possono nascere rapporti autentici di amicizia o perlomeno di rispetto. Il rispetto è il vero lasciapassare per conoscere il mondo, il passaporto del viaggiatore per andare ovunque. Però, ecco, forse la notte anche la gente ha anche più voglia di raccontarsi, di parlare e di far diventare quella che viene definita con una parola molto divertente, radio bemba. Cioè bemba sarebbero le labbra, ma non le labbra, sono le labbra gonfie, le labbra, diciamo, delle persone, dei prieti, delle persone di colore, quindi labbra molto grosse, quindi labbra che contengono molte cose da dire. Ed è praticamente una sorta di informazione sotterranea, il racconto di ciò che normalmente non si legge, che ne so, sul giornale di partito, che è il Gramna, che è un giornale chiaramente di partito, e quindi è un giornale di regime, un giornale dove certe cose non si leggono, non si possono leggere, anche fatti di cronaca, ad esempio. Invece nella calle di notte questa radio bemba, cioè questo passaparola, questo tam tam, arrivano storie a volte anche ingigantite, no? Perché passando da parola a parola le storie diventano quasi inverosimili, quindi straordinariamente affascinanti per uno scrittore, perché non c'è niente di più bello, penso, per uno scrittore che, come si può dire, il giornalista informa, lo scrittore deforma, quindi narrare le storie vuol dire anche deformare le verità, raccontare grandi menzogne, ma di grande attrattiva, di grande fascinazione. Don Candor, realmente era yo le di, pensando en nuestro idilio consagrar, sin pensar que ya lo que buscaba en mí era el amor de loca juventud. Dall'esperienza di Radio Bemba, cioè la voglia di raccontarsi, il passaparola delle labbra carnose, le bemba appunto, gonfie di cose da dire, a un'esperienza al cinema. Imperdibile, secondo Davide. Ecco, andare al cinema a L'Avana è un'esperienza bella, perché è un salto nel tempo, praticamente è come essere inghiottiti in un mondo che non c'è più da noi. I cinema a L'Avana sono enormi, per esempio, con 2-3 mila posti, no? Sono giganteschi. Sono cinema antichi e cinema dove ancora si può fumare, per esempio, tutti fumano come dei pazzi. E sono cinema dove ci sono i venditori di noccioline, di caramelle che passano e durante il film a voce alta propongono le loro mercanzie. Sono cinema vivi dove il pubblico non è pubblico, ma è anche protagonista di ciò che sta accadendo in sala. È una cosa molto divertente, come accadeva in Italia forse nel periodo prima della guerra, subito dopo la guerra. La gente partecipa alla pellicola che viene proiettata, quindi commenta ad alta voce, no? Grida, entra in scena, che ne so, il cattivo, allora tutti bu bu bu, e le ragazze cubane si tolgono le scarpe con i tacchi, appoggiano i piedi sopra lo schienale della persona che è davanti. È tutto un mondo in movimento ed è bellissimo. C'è un cinema molto, molto, molto bello in centro a Havana, proprio vicino al Campidoglio, che si chiama Cine Pairé, ed è uno sterminato salone, appunto, come dicevo, è il cinema più grande e più popolare dell'Havana, è attivo dal 1878. Ecco, la cosa più bella, come dicevo, vedendo anche quest'anno, ho visto un film appena uscito, purtroppo la produzione di film non è come in India, dove c'è una produzione di film incredibile, quasi quotidiana. Lì un film è un avvenimento, c'è molta attenzione anche alla cultura e anche alla cultura cinematografica. Un pubblico protagonista come nei nostri cinema di 50 anni fa. Deve essere bello andare a una proiezione anche solo per vedere cosa succede in sala e non tanto sullo schermo. Ma la grande attenzione alla cultura non riguarda solo il cinema da queste parti. Sì, la cultura è ancora molto importante a Cuba. Prima parlavo dei film, del cinema, ma anche a livello letterario. Ogni anno in febbraio si svolge la Feria del Libro, Feria Internazionale del Libro, alla Cabaña, che sarebbe questa fortezza spagnola che si trova nella Baia della Havana di fronte alla città, ed è un avvenimento straordinario, lo dico veramente a cuore aperto. Io vado a Cuba tutti gli anni a febbraio perché c'è la Feria della Letteratura, la Feria del Libro, non me la perdo, anche se magari oggettivamente non c'è nulla, non è nulla da vedere in confronto, che ne so, alla fiera di Francoforte o alla fiera di Torino, no? Perché i libri sono pochi, non ci sono tantissimi libri. Però la cosa straordinaria è la partecipazione popolare, è l'entusiasmo, è il coinvolgimento della gente. E ci sono pullman su pullman che partono dalla Havana portando ogni giorno migliaia di persone, famiglie con i bambini, coppie di fidanzati, gruppi di amici, allegri, felici di entrare in un luogo dove ci sono libri, dove vendono libri. Ecco, io ho avuto esperienza alla Fiera del Libro di Torino, altre manifestazioni, dove esiste un'offerta incredibile di cultura, di libri, centinaia di stand, centinaia di paesi, però non c'è questa allegria, sinceramente, c'è anzi una sorta di come si dice, di, per usare una brutta parola, di scazzo, cioè gente quasi seccata, che sempre quest'aria un po' annoiata. Ecco, a Cuba dovremmo fare ogni tanto qualche viaggio per una sorta di bagno di umiltà, per imparare anche ad accontentarsi delle piccole cose. Ripeto, in un paese che è pieno di contraddizioni, dove la libertà è una parola assolutamente aleatoria, perché la gente non è libera di uscire, di andarsene, di dire quello che pensa, questo lo sappiamo. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Cuba con Davide Barilli. When I walk beside her, I am a better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Sono a Parma con Davide Barilli, che mi sta facendo conoscere Cuba. L'ora di pranzo si avvicina e, da buon parmigiano, mi ha appena promesso che mi porterà a mangiare in un buon ristorante. Imperdibile, penso, così come i suoi racconti sull'Havana di ieri e di oggi. L'Havana che tutti sentiamo di conoscere anche se non ci siamo mai stati. Eppure la sua esperienza di viaggiatore cerca di condurmi nei luoghi meno frequentati e più suggestivi. A volte mi chiedono cos'è, che cosa c'è che non si deve assolutamente perdere quando vai ad Havana. Sì, io cerco sempre di evitare di parlare delle fabbriche di tabacco o della botteghita del Medio, oppure del museo Hemingway, della casa di Hemingway, di questi luoghi veramente belli ma turistici, dove non trovi la vera anima di Cuba, ma trovi la vera anima del turismo cubano. Se invece volete fare una cosa leggermente diversa, ecco, io consiglio sempre di andarsene sul porto e di prendere la lancita, che è questa vecchia chiatta che parte ogni 5 minuti, che ti porta dall'altra parte della Baia dell'Havana, in piccoli paesi che si chiamano Casablanca, Regla, Guanabacoa. E il viaggio vale la pena, tra l'altro paghi veramente una cifra ridicola, irrisoria, tipo, non so, 10 lire delle nostre vecchie lire, una cosa buffa proprio. Dura pochi minuti questo viaggio e ti trovi in mezzo ai cubani che vivono l'altra Cuba, un'altra realtà, ecco, di questi paesi molto semplici. Ci mancava proprio una gita in barca per uscire dall'Havana e uscire dai soliti percorsi turistici. Tutto è più vero. E poi, se si vuole bere il mojito più buono, si devono seguire le indicazioni di Barilli. Oltre a Casablanca, Regla, ad esempio a Regla c'è questa chiesa dove c'è la Virgine di Regla, che è la Vergine Nera. C'è una leggenda sull'arrivo di questa Vergine Nera. E qui è una zona di santiere, una zona di religiosità molto accesa, dove trovi appunto queste donne che ti fermano sulla strada, ti vogliono leggere i tarocchi cubani, ti vogliono... Tu volendo puoi comprare anche da loro questi oggettini, queste maschere di cartapesta. E poi però, ecco, c'è a Regla, c'è un posto che vi voglio consigliare, che pochi conoscono, che si chiama il Tropical, ed è il luogo dove fanno il mojito più buono e più barato, come dicono a Cuba, cioè più meno caro, ecco, di tutta Cuba. Non costa pochi centesimi ed è buonissimo, fatto da Tony, un cameriere elegantissimo, sempre vestito in modo perfetto, da cameriere meraviglioso, in un posto che si chiama Regla, dove vanno pochissimi turisti, dove puoi anche mangiarti un piatto di camarón enciladi con il riso, molto buoni, anche qui spendendo quello che spendono i cubani, cioè, che ne so, neanche un dollaro. Mentre se invece tu vai a Miramar, che sono nella Quinta Avenida, dove sono i luoghi, diciamo, dei cubani ricchi, dove c'è il turismo, puoi spendere anche 40-50 dollari, ecco, forse anche più che in Italia. Però penso che la Cuba più simpatica, più vera sia questa, una Cuba dove non trovi neanche, no, questa esagerazione musicale, Cuba, civiltà musicale. Sono zone silenziosissime dove la gente non canta, dove c'è una pace meravigliosa. Una Cuba dove non si canta sembra impossibile da immaginare, ma Davide ci ha mostrato anche questo. Così come mi sta per far vedere che Cuba non è solo l'Havana, nonostante ci sia un proverbio del luogo che sostiene il contrario. Poi ci sono altre città straordinarie, nonostante gli abitanti dell'Havana abbiano un detto, no? Dicono Cuba es l'Havana, los demás es paisaje, cioè Cuba è l'Havana, tutto il resto è soltanto paesaggio. In realtà non è vero, ci sono città meravigliose come ad esempio Baracoa, che è la città più antica di Cuba, l'estremo oriente di fronte ad Haiti, no? Ne parlo molto in un libro che ho scritto, pubblicato da Mursi, Le cere di Baracoa. È un romanzo. E scrivo in questo romanzo: Baracoa è laggiù, schiacciata nella mezzaluna della baia, in fondo alla montagna. Un nome che mi fa pensare al tronco di una pianta misteriosa, invisibile e notturna, che galleggia in mezzo a un mare placido e sconosciuto. Baracoa? Anche per me il nome è molto evocativo. Sembra addirittura onomatopeico, qualcosa che ti culla. Ecco, Baracoa è una città che si raggiunge in modo difficoltoso. Si deve percorrere una lunga strada che porta da Santiago fino a Baracoa, una strada costiera bellissima, e poi si deve salire questa montagna che si chiama una montagna che ha moltissimi tornanti, molto difficoltosa, molto alta. E quando sei in cima a questa montagna vedi dall'alto questa baia meravigliosa e sembra di essere in un altro mondo, un'Africa antica, rigogliosa. C'è un ecosistema particolare a Baracoa, crescono alberi di cioccolato, di cacao. E quando sono andato la prima volta, una quindicina d'anni fa, non c'erano automobili, c'erano soltanto cavalli, la gente girava a cavallo, c'erano le carrozze con i cavallini piccolini. Questa baia stupenda, la baia del Miel, c'è un enorme relitto di una nave in mezzo alla baia. Quest'altra montagna che si chiama lo Yunque, l'incudine che domina tutta la città. Ed è un'altra Cuba, una Cuba di grande suggestione, ecco, di grande placidità, di grande calma. Case di legno, popolazione prevalentemente nera di colore. E questo è un viaggio bellissimo, anche Baracoa, senz'altro. È un luogo evocativo di sensazioni. C'è una spiaggia straordinaria, si chiama Playa Maguana, e la vita scorre molto tranquilla. La gente beve cioccolata calda e rum e ci si diverte. Ecco, Baracoa è bellissima. C'è un piccolo malecon lungomare, dove c'è un mercatino dove vendono di tutto, ma è fatta di niente Baracoa, è fatta di sensazioni. Ecco, se uno va alla ricerca non di monumenti, chiaramente se cerchi la storia, i monumenti, devi stare a La Habana, ma se cerchi sensazioni ed emozioni particolari, Baracoa è straordinario. Così come altre città, Gibara per esempio, un'altra città costiera. Emendor, molto affascinante, è una città dove ci sono i pescatori di marlin, pescatori di pesce spada e di marlin. E poi c'è questa storia curiosa di una ragazza, la ragazza più bella di Gibara, che prigioniera della sua bellezza morirà triste e sola. Insomma, Cuba è davvero anche altro rispetto a La Habana. Prima di portarmi a pranzo, però, Davide mi legge alcune parole dal glossario che si trova alla fine del suo libro, una specie di dizionarietto per il viaggiatore. Dopo petacca, la bottiglietta di plastica per il rum a forma di tasca posteriore per essere comodamente portata in giro, la parola che mi fa davvero ridere è guaraperia. Il guarapo è questo succo dolcissimo che si ricava dalla spremitura della canna da zucchero. I cubani ne bevono moltissimo, perché sostengono che abbia anche il potere di incrementare la virilità maschile. Beh, come dice Barilli, una delle tante esperienze da non perdere per chi va a Cuba. Ora Davide Barilli è in libreria con Le cere di Baracoa, edito da Mursia. En el barrio la cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay mamá, ¿qué pasó?